Letture di Radio 24. Alieni che nella preistoria sono arrivati sulla Terra per insegnare agli uomini a costruire le piramidi. Una razza di bianchi che ha colonizzato il Nord America e che è stata scoperta da un ammiraglio cinese 70 anni prima di Colombo. Sono molti i falsi miti sulle origini e sulla storia dell'umanità che nel corso degli anni hanno dato vita ad una pseudo-storia parallela a quella reale. Storie che spesso sono state amplificate dai media fino al punto da diventare quasi credibili, come dimostra il successo di romanzi come Il Codice da Vinci. Tra le invenzioni storiche che lo studioso Ronald Fritze ha raccolto nel suo libro Falsi miti, ce n'è anche una che riguarda lo spostamento della crosta terrestre, esposta nel 1958 dal professor Charles Hapgood. Lo scorrimento della crosta terrestre ha presentato l'ipotesi che la crosta esterna della Terra, sottile ma dura, scorre intorno al suo nucleo interno, morbido e semifluido. Questa condizione ha permesso che in passato il polo nord e il polo sud si siano spostati più volte dalle collocazioni geografiche originarie, anche se in realtà è la crosta che si sposta. Lo scorrimento della crosta terrestre si protrae per un periodo di tempo che dura circa 5.000 anni, dopodiché i poli rimangono fermi per circa 20 o 30.000 anni. Secondo Hapgood, gli scorrimenti della crosta terrestre hanno provocato l'espansione e il ritiro dei ghiacciai dell'era glaciale. Gli spostamenti della crosta terrestre si sono verificati in maniera difforme e per questo il materiale della crosta si è accumulato in alcuni punti, formando quindi le montagne. In altre regioni la crosta si è distesa a formare pianure e altopiani. Hapgood credeva che gli spostamenti della crosta avvenissero quando si accumulava una quantità di ghiaccio polare sufficiente perché il peso si distribuisse in modo non equilibrato rispetto alla rotazione del pianeta. Il secondo libro di Hapgood, Le mappe delle civiltà perdute, le prove dell'esistenza di una civiltà avanzata nell'era glaciale, è apparso nel 1966. Questo studio si è concentrato sulla mappa Piri Reis del 1513, una mappa manoscritta che rappresenta la costa orientale del Sud America e una parte dell'Africa. Piri era un ammiraglio dell'impero turco ottomano. Era un cartografo appassionato e abbozzò molte mappe, fra cui una del mondo, che si basava su mappe sia antiche sia contemporanee. È un bellissimo esempio di cartografia del Rinascimento, ma gli storici di cartografia, per la maggior parte, non considerano la mappa di Piri Reis eccezionale per accuratezza geografica o precisione delle misure. Hapgood comunque riteneva che la mappa Piri Reis fosse eccezionale. Credeva che rappresentasse una parte della linea costiera dell'Antartide, come appariva prima di essere coperta dalla cappa di ghiaccio del Polo Sud. Tuttavia, l'Antartide non fu visitata dagli esploratori europei fino al 1819. Questo significa che prima di quella data nessuno sapeva come fosse la sua geografia coperta di ghiaccio, per non parlare del fatto che fosse priva di ghiaccio. Le idee di Hapgood sullo spostamento dei poli e la mappa di Piri Reis che rappresentavano l'Antartide non erano originali sue. Hugh Brown per primo ha concepito l'idea che il peso del ghiaccio polare facesse sbilanciare la Terra e ne sconvolgesse la rotazione. Brown affermava che il peso del ghiaccio polare faceva spostare i poli e questo si verificava all'improvviso e con grandi devastazioni circa ogni 6.000 anni. Poiché credeva fermamente nelle proprie ipotesi, Brown temeva che fosse imminente un disastro naturale di proporzioni globali. Predicava l'uso delle bombe nucleari per sciogliere la cappa di ghiaccio dell'Antartide e impedire che si verificasse l'imminente spostamento dei poli. Brown lavorava duro per trovare persone che avessero l'autorità per portare a termine le sue proposte piuttosto drastiche. Scrisse o incontrò i membri del Congresso o i media nel tentativo di assicurarsene il sostegno. Qualcuno del New York Times l'ascoltò davvero e il 1 settembre 1948 fu pubblicato un editoriale che mostrava i risvolti preoccupanti del futuro predetto da Brown. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Ronald H. Fritze, Falsi miti, come si inventa quello in cui crediamo. Sironi Editore, 352 pagine, 19 euro.